Tutto come previsto, ovviamente. Ben Ali è stato rieletto per la quarta volta alla presidenza della Repubblica Tunisina con uno degli ormai soliti plebisciti, 94,49%, e il suo partito, il Raggruppamento Costituzionale Democratico, ha conquistato 152 dei 189 seggi in palio per la Camera dei Deputati. I restanti sono divisi tra 5 partiti minori. Per quanto riguarda le presidenziali, i 3 candidati che erano in concorrenza con Ben Ali hanno raccolto le altrettante previste briciole. Le elezioni e la campagna elettorale, ha detto nel corso di una conferenza stampa il ministro dell'Interno, si sono svolte in un clima di assoluta correttezza nel rispetto dei diritti di ognuno. Di parere diametralmente opposto è Mohamed Ali Alouani, l'unico vero oppositore, leader del movimento Etajid, che raccoglie ex comunisti e sinistra democratica. Secondo Alouani, che ha ottenuto lo 0,95% dei consensi e 3 seggi alla Camera, il partito al potere ha oscurato la stampa e zittito la libera informazione. Anche per questo ha promesso di continuare la battaglia tendente ad una vera democrazia liberale. La percentuale di votanti è stata del 91,52%. Franco Chiavegatti di Reporter Associati per Amici Radio.